Have you seen her face? Her eyes reflect the colors in the sky. A more familiar place to be swept into whenever she's close by. Makes me wonder why. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eye. Must be the way she walks, a style made up to capture all she needs. No time spent on loose talk. If your luck runs right, she might see you tonight. Everything in sight. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. Find you're locked in her spell. All the sights and sounds, your senses will be found. And only time will tell how much love can be. To wait so patiently, wait and see. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. Ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, a microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Ritornano gli ospiti in studio, stasera con noi alcuni membri di una formazione modenese che sta facendo parlare di sé e come al solito ci presenterà il loro disco. A voi le presentazioni. Ciao, ciao a tutti, noi siamo in Controtempo e questa sera siamo io, Marco, il cantante. Andrea, tastiere. Niente, noi insomma ci conosciamo già, diciamo che siamo usciti in radio da maggio, no? E quindi voglio dire... E col nostro brano Come Bud Spencer e Terence Hill, nel cui video ci sono loro due. E adesso siamo in uscita col secondo singolo, ma penso che nel corso della puntata avremo modo, no, di parlare approfonditamente. Ed allora con il Controtempo facciamo un salto un po' particolare, iniziando dal rock anni 60 con alcune formazioni più o meno note dalla forte connotazione melodica. Abbiamo iniziato questa puntata con i Byrds, il brano Have You Seen Her Face del disco Younger Than Yesterday del 1967, in pieno periodo psichedelico. I Byrds sono ricordati per aver influenzato profondamente la musica rock americana, creando col tempo proseliti e band che si rifacevano a loro. Che ne pensate? Allora, guarda, i Byrds sono un gruppo, secondo me, molto, mi piacciono molto, anche perché mi piace chi riesce a comunicare attraverso l'energia della musica rock qualcosa di melodia che arrivino subito alla gente, e quindi loro secondo me erano maestri in questo, anche sui riff delle chitarre e così. Diciamo che un po' i viaggi psichedelici sono qualcosa che magari spesso trovano sicuramente molto consenso, alle volte forse non è quello che ci piace fare a noi, ecco, perché magari a noi ci piace più parlare della vita così, così com'è. Però era comunque, quel periodo, insomma, ecco. Infatti, però l'energia del rock, in cui comunque, voglio dire, sì, quella voglia di protestare in modo anche così su quello che magari non va così, è qualcosa, certo. È un'energia che è bella da tirare fuori. E poi anche il fatto di, cioè, io queste chitarre che sentivo, Rickenbacker, esatto, e anche questo modo di cantare sempre armonizzato, questo che mi ricordava anche un po' i Beatles, no? Certo, come infatti. Tipo di stile, quindi insomma qualcosa di molto particolare, lo riconosci. I Beatles americani, no? Certo. La storia dei Controtempo inizia nel 2005, come vi siete formati e da cosa è scaturito questo nome? Allora, praticamente la band si è formata in un processo che è quel processo che fa formare, fa seguire un desiderio, no? E che fa partire da un piccolo paese, mettere a tema dagli amici che sono con te la voglia di suonare seriamente, cioè, quindi al di là del trovarsi a passarsi il tempo. Esatto. E questa cosa qua è stata una bella spinta, nello stesso tempo anche fatto una specie di selezione, perché poi dopo chi suonava per passatempo pian pianino ha mollato. Mm. E cosa è successo? Quindi nell'andare avanti è stato un percorso professionale che poi ha portato nel 2008 a avere la formazione definitiva, a cui solo si è aggiunto il mio amico qua Andrea nel 2010. E che però, ecco, adesso è una band assolutamente di amici fraterni, ma che nello stesso tempo mette a tema proprio una professionalità, una voglia di far musica seriamente, che è quella che ci sta portando a fare questo mestiere, insomma. Bene, proseguiamo il nostro viaggio negli anni 60 con i Love, band di Los Angeles guidata dal chitarrista Arthur Lee, viene ricordata per le atmosfere melodiche ed emozionanti che sapevano creare dal disco Forever Changes del 1967 la canzone House Is Not a Motel. At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. By the time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Formazione ricordata dagli appassionati di musica psichedelica che ebbe la sfortuna di trovare sulla sua strada i Doors, che tolsero la loro dalla parte della scena, quando, nonostante la capacità compositiva ci sia, le cose vanno tutte storte. Che ne dite? Ecco, allora, questa qua è una cosa che succede in campo artistico, ma è un momento anche per me positivo, molto difficile, è successo anche a noi. Però penso che questi sono un momento che ti stimolano ad andare all'origine di che cos'è fare musica, no? Cioè, certo. Che non è fare una gara che arriva primo, come oggi sembra, spesso viene ridotta a questo, anche con i reality, no? Sembra sempre che bisogna vincere, quindi quando qualcuno ti arriva primo ti si chiude una porta, sei in depressione, ma... Cioè, il senso della musica e dell'arte e anche della vita è esprimere quello che hai dentro, no? E quindi voglio dire, quando ti trovi delle porte chiuse, spesso ingiustamente, anche da logiche distorte, il mercato discografico, mediatico di oggi, penso che andare all'origine della tua voglia di esprimerti fa trovare altre strade, anche creative, come per dire, per noi può essere stata la collaborazione con Bud Spencer e Terence Hill, può essere stato il video che abbiamo fatto, che sicuramente ti fanno sudare di più, però poi dopo è molto più bello davvero riuscire a esprimere quello che sei e non quello che qualcuno vuole costruirti, no? Certamente. Vostre esibizioni, so che in questi anni avete avuto modo di provare le emozioni di alcuni concerti importanti, vi chiedo come sono state queste esperienze. Dunque, io personalmente ho un paio di esperienze che mi hanno colpito perché sono totalmente diverse, cioè il concerto piccolo, uno dei primi che abbiamo fatto a Vignola, in cui però erano ad ascoltarci Alessandro Bagnoli e Massimo Varini, i produttori artistici, e il secondo invece è un palco grande perché eravamo in piazza a Modena con era di Bruno Estate, quindi è stata un'emozione fortissima. Ecco sì, infatti c'è bello, come diceva anche Andrea, c'è questa dimensione dal palco piccolo al palco molto grande che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Abbiamo fatto quindi situazioni molto piccole, intime, che c'è molto contatto con la gente, situazioni di grandi piazze come quella di Modena, anche quella di Reggio Emilia, che fare un concerto tutto nostro in una piazza intera è stato proprio bello dopo 3 mesi dall'uscita. E tante persone vi hanno anche visto, insomma. Sì, infatti, quindi è stato bello. Poi altre cose a Zogno, insomma, vuol dire uno che avevamo fatto tanti anni fa a Loreto davanti a 500.000 persone. Non è poco, voglio dire. Concludiamo questa prima parte con i Grassroots, piccola formazione americana di culto. Vengono ricordati per i loro riferimenti italiani grazie ad alcune canzoni che furono importate dal nostro paese, come questa Let's Live for Today, originariamente interpretata dai Rocks nel 1967. When I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. May others plan their future, I'm busy loving you. One, two, three, four. Sha la la la la la, live for today. Sha la la la la la, live for today. And don't worry back tomorrow, hey. Sha la la la la la, live for today. For today. We were never meant to worry the way that people do, and I don't mean to hurry as long as I'm with you. We'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can. Sha la la la la la, live for today. Sha la la la la la, live for today. And don't worry about tomorrow. Hey. Sha la la la la la, live for today. Inside of me, I got to feel you deep inside of me. Baby, please come close to me. I got to have your love, please, please, please, please. Give me some love, to give me some love, to give me some love, to give me some love. Baby, give me some love, to give me some love. Yeah.